Friuli nel mondo, 119esima trasmissione dedicata agli emigrati, Festival 1963 della canzone friulana. Abbiamo registrato per voi, cari amici in ascolto, nella stupenda cornice del Parco Giacomelli di Pradamano, il quarto Festival della canzone friulana. Un festival innocente, alla buona, casalingo e pulito, come scrisse l'anno scorso Enzo Grazzini sul maggior quotidiano italiano. Vi presentiamo oggi una fiorita di canzoni che musicisti, parolieri e cantanti dilettanti hanno offerto al numeroso pubblico con le orchestre di Guido Cergoli e Franco Russo. Con l'orchestra tipica friulana di Guido Cergoli ascoltate L'Alpin di Romano Donato e Beppino Lodolo. Canta Beppino Lodolo. Soy na sussulis montagni, io soy pratic zave cre, ma quo che hai vincis, militar mi tocerà. La me mame si dispere, no vulcrodi al mio destino, ma che ribe primavere, il suo frutto al Alpin. Alpin, io mame, volente tu li vin, Alpin m'arriute, se lontane il vin, ti preno mute piene, non sta più brontola, se che è la mestere, venga con me a cianta, e tu m'aiuti piene, tesoro mio nemì, venga con me e fare la marcia dall'Alpin. No vi ho visto c'è spari, o guardi in cerca non, sarai la quarce vive di tutto il battaglio, marcia su te smontani, la sera torzeo, parno sin di magani, un litro di quel Tiei voi, di Olinto Contardo e Beppino Lodolo, viene interpretata da Edda Pinzani. Tal sardin de me vite e floride le rose che mi dà luce e amore tal splendor dai siei voi. Dome quanche tu mi chalis tutto il mondo al pari in flor. E se tu mi fevelis il paradiso in tal mio cuore, anche a Montalva il soreli e si studia ogni loso, i tuoi voi son come stelis che mi dan luz passe amore. Gracios ninis, color dal mar profond, lusin sin tal amor. I tiei voi quanche mi chali, son dos stelis dal Signor. Che fra mille e mille lusi e mi dan luz, paz e amor. Quanche a Montalva sorelli e si studia ogni lo so, i tiei voi son come stelis che dan luz, calore, amor. Grazios ninis, color dal mar profondo, stelis dal Signore, che fra mil e mila luci e mi dà luz, paz e amor, e mi dà luz, paz e amor. L'orchestra ritmica di Franco Russo esegue la canzone L'Alpin di Lodolo e Donato nell'interpretazione di Stefano Lopizzo. Soi lassù sulle montagne, o soi prati sade crede, ma con occhio ai vinciai, milita mi tocce là. La me mamme si dispere, non crodi al mio destino, mo che rive primavere, il soffrutto al valpì. Alpini, o mamme, volente tu vieni, Alpin, Mario, se bon care il vin, ti prei mamute bielle, non sta più bruntula, se chiederà le stelle, venga come a cantare. E tu, Mario, te bielle, tesoro gnorini, venga come va la marcia dall'Alpin. Alpin, io mame, polente tu nini, Alpin, mare, se bon care il vin, novio di stuce spali, si io porta anche il camon, sarai la forza vive di tutto il battaglione. Marcia su pes montagni, la sera a torceon, parlo sinti magagni, un litro di kelbo. Boncare il vin, novio di stuce spalli, si io parto anche il canon, sarai la forza vive di tutto il battaglione. Marcia su pes montagni, la sera a torceon, parlo sinti magagni, un litro di kelbon. La la la la la la, se biencare l'alpin, la la la la la, se biencare l'alpin. Beppino Lodolo infine canta I tiei voi di Contardo e Lodolo. Al giardin de me vite e floride una rosa che mi dà lo se amore tal splendor dai sei voi nome quanca tu mi ciali tutto il mondo appare in flor. E se tu mi favelli il paradiso sin tal cu anche a montata il sorelli e si studi ogni illusione. I tiei voi son come steli che mi dan lo spazio amor. Grazios minis, color dal mar, propons lusi in tal tui voi quanche mi ciali son do steli stal signor che fra mille e mille luci e mi dà lo spazio amore. Grazios minis, color del mar, profons lucis in tal amor. I tuoi voi quanche mi ciali, son do steli stal signor. Che tra mille e mille luci e mi dà lo spazio amore e mi dà lo spazio amore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.